Attenzione, attenzione, attenzione, sta per cominciare la colazione di Rock FM. Non vi deluderemo. Attenzione, attenzione, sta per cominciare pane, burro e rock and roll. Correte ai ripari, correte ai ripari. Sigla! Attenzione, attenzione, pane, burro e rock and roll sta per cominciare. Pane, burro e rock and roll, non vi deluderemo. La tua colazione roll, la peggiore in circolazione. Pane, burro e rock and roll, con il DJ Ariele Spadino e Roberto Fricantoni, il peggio. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ora è 7:01 primo. Buongiorno Milano, buongiorno Firenze, buongiorno Genova, buongiorno West Coast Toscana e buongiorno Brandellini di Emilia Romagna. Il saluto vi arriva da Via Locatelli 1, 20124 Milano, sede della storica emittente radiofonica Rock, che si chiama Rock FM. Qui c'è l'Ariele a darvi il buongiorno e a iniziare questa 32esima puntata della colazione che chiamiamo pane, burro e rock and roll. Un lampione crepuscolare che è ancora acceso, vedetta delle nostre, dei nostri primi minuti di diretta. Via via, entro le 9 ci abbandonerà, ultimamente ci sta abbandonando verso le 7:30, 7:40. Noi tireremo dritto. Noi tireremo dritto, che è meglio, fino alle 9 del mattino. Parecchie novità anche per quest'oggi. Insomma, puntata ricca, piatto ricco, mi ci ficco. Che inizio oggi, eh? Iniziamo con Feels Like the First Time. È come se fosse la prima volta. Tra l'altro per noi è così, eh? Tutta la redazione di Pane, Burro e Rock and Roll, quando ci incrociamo con gli occhi a quest'ora della mattina, ce lo diciamo sempre, è come la prima volta. Fa sempre un po' male. You're out in the world. stava il controcorretto un po' gay, no? Foreigner, Feels Like the First Time. Sì, sì, mi piace molto come inizio, è vero, è proprio quello, è proprio l'atteggiamento col quale noi della colazione di Rock FM affrontiamo queste dirette, pur essendo noi dei vecchi professionisti. Ci piace affrontare queste dirette come veramente se fosse la prima volta, un atteggiamento che abbiamo anche nella vita, con lo stupore di piccoli bambini che guardano il mondo, con lo stupore di piccoli verginelli che si apprestano a camminare sulla strada del rock and roll. Ah, grande poesia anche quest'oggi sulle frequenze di Rock FM, sulle quali siete i benvenuti e le benvenute, ormai lo sapete. Non muoviamo un passo senza di voi, che ci potete contattare grazie a un numero di SMS sempre gettonatissimo, che è il 335 100 77 77, una casella di posta elettronica che ultimamente sta diventando un buon approdo per le raccomandazioni. In molti raccomandano i saluti per tempo via mail e mi sembra un'ottima cosa. Ne ho anche una per quest'oggi, ho una super raccomandazione, ce l'ho qui, guarda, spadina stampata dalla nostra redazione, daremo un'occhiata più avanti. E oltre a queste linee di contatto abbiamo anche un indirizzo vero e proprio attraverso il quale potete mandare le cartoline postali, che continuano imperterrite ad arrivare al nostro indirizzo, tra l'altro gettandoci in un tunnel di sconforto perché non sappiamo più come affrontare la situazione. Come al solito, come tutte le buone idee di Pane, Burro e Rock and Roll ci cadono addosso come delle valanghe. Ormai questa è la nostra maledizione, ce la porteremo avanti. Via Locatelli 1, 20 124 Milano. Ecco l'indirizzo nel caso qualcuno di voi volesse mandarci una cartolina da Cinesello Balsamo. Intravedo dal mio finestrino, dal mio oblò che lancia il mio sguardo oltre la siepe, come direbbe il Leopardi, eh? Alle 7:07, hai capito? Sull'omino che scende il cane, e salutando lui saluto tutti i gruppi d'ascolto che mi stanno scendendo il cane in questo momento. Perché non scenderlo a ritmo di buon rock and roll, no? I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good. eccolo qui, finalmente possiamo chiedere uno splendido buongiorno anche a Roberto Fricantoni from Bologna. Buongiorno a cosa tutti. Cosa fa, Fric? Siamo in radio. No, buongiorno. Non parli con la bocca piena, sputi subito. Chewing gum, sai che la cicles, la sì. Lei la chiama cicles o chewing gum? La chiamo cicca. Cicca, sì. Non lo sa che una cicca è più per sigaretta, però adesso non approfondiamo questo argomento. Sì. Ma allora la gomma americana la ingoi subito e dia il buongiorno. Ma è molto rock, sa, parlare con la gomma americana. Sì. Molto rock, buongiorno, eccolo, no, va bene. La ingoio. Mi rifaccio. Le do un colpetto, eccolo lì, è andato. Martedì 16 ottobre, almanacco. Un buon 16 ottobre a tutti, uno splendido martedì. Partiamo con una notizia tremendamente rock. Era il 1829, senta qua, sì. In un ramo della linea ferroviaria Liverpool-Manchester si svolge la prima gara di velocità tra locomotive. Ah, mi dica, chi vinse? Vincerà una locomotiva del signor George Stephenson, che si chiamava, pensi un po', Rocket. Razzo, con un nome così rock non poteva non vincere. Vai Stephenson. Passiamo a una notizia medica invece. Il 16 ottobre del 1846, primo uso come anestetico dell'etere da parte del medico statunitense William Thomas Morton, padre della chirurgia indolore. Ah, finalmente padre di tutti gli anestesisti. Lei si farebbe curare da un dottor Morton? Beh, certo che qui in Italia fa un po' impressione, ma pensi il suo contributo alla scienza. Sì. Prima bisognava mordere un laccio di cuoio, sì. Oppure stordirsi con una bottiglia di whisky, magari data in testa. O tracannata, insomma. Grazie al buon Morton si è iniziato con l'etere, via via. Ma pensi alla cura dei denti, quanto è andata avanti con l'anestesia. Pensi curarsi i denti senza l'anestesia, mai provato? No, per fortuna no. Chiuderei con una notizia, un fatto storico che ricorderete tutti. Era il 1968 quando gli atleti statunitensi Tommy Smith e John Carlos vengono espulsi dalla nazionale olimpica. Pochi giorni prima, alle Olimpiadi di Città del Messico, dopo la finale dei 200 metri, quando si erano posizionati al primo e al terzo posto, erano saliti sul podio scalzi, avevano ascoltato l'inno nazionale a capochino, ma soprattutto avevano sollevato un pugno con un guanto nero, sostenendo il movimento per i diritti umani olimpici. Ah sì, un'usanza del tempo. Io avrei detto che il pugno nero sollevato, cioè il pugno col guanto nero sollevato, era un gesto di solidarietà per le Black Panthers, che andavano molto forte nel ai periodo. Tempi, sì, era il 68. Tommy e John Carlos comunque sono stati molto coraggiosi, hanno pagato in prima persona questo loro entusiasmo. Erano rock, sì. Erano due rocker. E beh, che c'è? Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman. Hey. secondo fa arriva un SMS. Buongiorno, che classe, ragazzi. Eh sì, c'è stile in questo programma, dobbiamo ammetterlo, ma soprattutto c'è stile in Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, un classico del repertorio Dylan, trasformato in perla, che splenderà per sempre. Oggi ce l'ho poetica, ragazzi, non so com'è questa storia. Anche stamane il buio cederà il passo alla luce, anche stamane il traffico medio cederà il passo al traffico pesante, anche stamane. Tra l'altro oggi tantissimi uomini che scendono il cane, è già il terzo che vedo da quando ho iniziato. Gli SMS, il patentato 110 ci chiede se invece esistono uomini che scendono il gatto. No, non credo. Non ho mai posseduto un gatto, ma credo la facciano da soli. È quella la particolarità. No? Cioè, non bisogna scendere il gatto. O spero di non aver detto una stupidata. Però, ragazzi, a me la mancanza dell'omino che fa giochi, io ve lo dico, non dovrei dirlo in diretta, ma io la sento. Cioè, io sento questo vuoto. La trasmissione, da quando non c'è più lui, che corre avanti e indietro in via Pisani. Sì, è vero, c'è il lampione crepuscolare, ma non so, era il contatto umano, capito, Spadino? Sì, c'è Freak, è vero, ma non so, bisognerà inventarsi qualcosa. C'è qualcuno all'ascolto che se la sente di organizzare dei turni? Qualcuno di Milano, non voglio chiedere ad amici fiorentini di prendere un treno alle 3 del mattino per far finta di correre qua davanti. No, non so, c'è qualcuno a Milano che è abitué dello jogging a quest'ora? Se la sentisse di venire a farlo in via Pisani, noi si sta un po' più tranquilli, perché non so, c'era questa... Vabbè, insomma, ho detto una stronzata. Ok, non la dico più. Devo chiedere perdono a Silvia da Milano, che stamane è stata svegliata dal suo apparecchio radiofonico, acceso da sua madre, mi confessa, proprio nel momento della sigla di Pane, Burro e Rock'n'Roll, però a manetta, quindi è disperata, chiede se riuscirà mai a riprendere l'utilizzo delle orecchie. Guarda, Silvia, prova a sciacquartele con questa Carrie degli Europe. Se non funziona questo, è ufficiale, non sentirai mai più come prima. Però deve essere un piacere perdere l'udito ascoltando Pane, Burro e Rock'n'Roll, no? Cartoline. Yeah. qui rinchiusi nel nostro studio oscuro, freddo, disperati al angusto, lavoro. Angusto, posso usare l'aggettivo angusto? Lo dica. Ma guardi, gliela apro io una porta di speranza, una luce che entra in questo studiuolo. Angusto. E sa come si chiama la nostra risposta? La soluzione? Cartolina postale. Ah, come se piovesse. Po' di scena. Quest'oggi andiamo tutti al mare. Complimenti. Da quale vuole iniziare anche quest'oggi i saluti a tre radioascoltatori o radioascoltatrici? Da dove partiamo? Scegliere. Beh, hanno tutte scelto tutte e tre dei bellissimi paesaggi, dalla Sardegna. Partiamo dalle rocce rosse della Sardegna, con un paesaggio indescrivibile, da tanto è bello, un mare cristallino. Limpido, delle rocce a punta, frastagliatissime. Rosse. Rosse, peraltro. Non si chiamerebbe così. Ce la scrive, vediamo un po', Sheila scrive: la lotta contro l'estinzione della cartolina mi ha molto colpito e ho voluto partecipare in prima persona. Avrei voluto però una di quelle cartoline brutte e tristi che rimangono dal tabaccaio per anni, purtroppo non l'ho trovata e mi tocca mandarvene una classica con il panorama, ma spero che il mio contributo valga ugualmente. Post scriptum, che sono sempre preoccupanti, post scriptum degli ascoltatori. Comunque voi due siete fuori di parecchio, se ne è accorta. Grazie Sheila, grazie per avercelo detto e ricordato. Comunque anche tu sei stata fuorissimo nel senso buono del termine. Restiamo nelle isole italiane, una decisamente più piccola ma altrettanto bella, fascinosa, l'isola d'Elba, dove vediamo Mar Tirreno, uno scorcio preso anche alla larga dell'isola d'Elba. Sì, molto bello però. Un bel cielo, bel verde, bel mare. Attenzione, il retro ce lo descriva, prego. Sì, le lascio a lei le descrizioni. Sì, guardi, la descrizione del retro prevede un disegno un po' naif, okay. Sì, esatto. Ma efficace, con una mano che erge due, si può dire erge? Sì, direi erge, sì. Erge due dita a forma di corna, inequivocabile, esatto. Cornuto, sì. E con un ragno, esatto. Che penzola tra queste due, esatto. Dita e una grande ragnatela che comprende il tutto peraltro impreziosito da un braccialetto. Sarà la firma. Un braccialetto, certo, che recita la firma, che è Panico, esatto. Dall'isola d'Elba, grazie a Panico. Salvate la cartolina postale, l'unica scritta che c'è. Da Capoliveri ci trasferiamo invece, vediamo un po', alle spettacolare evoluzione del vulcano Stromboli. Sì, infatti è la foto di una colata, ma eruzione mi sembrava una brutta meglio parola, colata, allora volevo dire colata, una colata vulcanica. Che stende verso il mare, ce la scrive Eli, tra l'altro datata 23 luglio, questo per farvi capire quanto siamo in ritardo, ma anche quante ne sono arrivate. Quante continuano ad arrivare. Esatto. Eli scrive: sarà che qui l'illuminazione pubblica non c'è, ma davvero il cielo è pieno di stelle. Dall'isola più rock di tutte, saluti da Eli. Grazie, grazie e ancora grazie. Via grazie. Locatelli 1, 20124 Milano, salvate la cartolina postale. E mandatecela rock, più rock che potete. Mandateci i vostri rock saluti. Yeah.